Allora, grazie intanto dell'introduzione Vision e a tutti voi per la partecipazione. E come sempre, quando parlo ad un pubblico, io preferisco cominciare con le domande. E questo è già un passo in avanti perché chi frequenta Vulcano sa che generalmente sono ancora più cattivo e pretendo di non avere nemmeno le domande. E che le dobbiamo trovare insieme. Comunque qua prendiamola un po' semplice perché gli argomenti che affronteremo comunque sono già sufficientemente complicati e anche le domande non saranno molto difficili. Scrivendo tranquillamente sulla tastiera, voglio che coloro che non sono familiari con l'argomento della singolarità tecnologica scrivano no. Basta una volta, mentre coloro che sono familiari con l'argomento della singolarità tecnologica scrivano sì. E quindi vediamo come le cose si sommano fra di loro. Ok, allora, come mi aspettavo giustamente, c'è un pubblico misto, dove alcuni di noi che hanno partecipato già ad altre riunioni, si sono familiarizzati con l'argomento, mentre altri lo sentono per la prima volta. E io darò un'introduzione molto breve, e poi penso che, ci saranno i contributi degli altri che ci permetteranno di analizzare un po', l'argomento attraverso le sue diverse declinazioni. Eventualmente torneremo per approfondire, diversi aspetti. Mi sembra che il microfono di qualcuno sia aperto, se non sbaglio è Vision o è Gian. Anche gli altri, se possibile, prego di badare al fatto che quando non state parlando, il vostro microfono sia chiuso se usate un altoparlante. E un'altra piccola nota organizzativa, mi sono accorto in questo momento che si è interrotta la registrazione audio, di quello che sto dicendo e io sono in grado di riprendere, il mio stesso audio indipendentemente, ma, chiederei ad altri se possono, mentre io parlo, attrezzarsi per assicurarci che l'audio sia registrato anche degli altri contributi. Ok, perfetto, grazie. Vedo che qualcuno ha scritto che è in corso la registrazione da parte sua. Allora, partiamo un po' a parlare della singolarità tecnologica. Sulla pagina di Wikipedia potete leggere una definizione molto bella e molto ben scritta, come è giusto che sia, con le pagine di Wikipedia più importanti. La singolarità tecnologica non è altro che una proiezione nel futuro di tendenze che vediamo già oggi, le conseguenze dell'accelerazione tecnologica che raggiungono una nuova fase. Non c'è bisogno di essere futurologi per sapere riconoscere che cambiamenti quantitativi di un parametro nell'ambiente possono comportare variazioni qualitative fondamentali. Questi passaggi si chiamano cambiamenti di fase e abbiamo tutti esperienza quotidiana di che cosa questo significa. Quando mettiamo l'acqua a bollire, per diversi minuti l'aumento della temperatura non comporta apparentemente nessuna variazione fondamentale, finché ad un certo punto l'acqua comincia a bollire. Analogamente possiamo essere in montagna a meno 20 gradi, a meno 10 gradi, a meno 5 gradi. possiamo sentire più o meno freddo, però la neve sotto i nostri piedi sarà comunque compatta e solida. Eppure bastano altri 5-6 gradi di cambiamento e di riscaldamento perché la neve cambi la natura diventando acqua. Il nostro mondo non è solo fatto di acqua, di neve, di ghiaccio, di vapore, di materia. È fatta di informazione, di elaborazione dell'informazione e di decisioni che hanno impatti forti sul nostro presente e sul nostro futuro, che si basano su quello che questa elaborazione dell'informazione comporta. Il fatto che siamo qua stasera una cinquantina di persone che parlano di questi argomenti è una dimostrazione chiara di quello che sto dicendo. L'elaborazione dell'informazione e la nostra capacità di attuarla influenzano il nostro presente e il nostro futuro. È sulla bocca di tutti la legge di Moore e spesso questa viene dipinta in modo molto elementare. In realtà non è una legge, è una profezia che si autoavvera con il desiderio quotidiano di dozzine di team concorrenti fra di loro che mirano a superare certi blocchi ingegneristici molto concreti, molto precisi, che se non superati farebbero sì che la loro azienda perda la corsa alla prossima generazione di microprocessore, oppure per le analoghe tendenze di miglioramento al prossimo sistema di immagazzinamento dei dati, gli hard disk o quelli che chiamavamo hard disk sempre più densi, oppure schermi a sempre maggiore risoluzione, cavi a fibra ottica a sempre maggiore capacità di comunicazione. E così come nel mondo fisico i cambiamenti quantitativi di certi parametri prima o poi comportano cambiamenti qualitativi, così la densità di potenze di calcolo nel mondo che ci circonda, nelle teorie che prevedono l'avvento della singolarità tecnologica, comporteranno un cambiamento qualitativo importante. Semplificando, questo cambiamento avverrà con l'avvento di sistemi intelligenti. E, come tante cose di cui parliamo, questo potrebbe in prima approssimazione sembrare qualcosa di eccessivamente fantascientifico. Parliamo allora molto semplicemente non di sistemi intelligenti, parliamo di sistemi autonomi. Già oggi, tantissimo di quanto succede attorno a noi è deciso da computer. Per parlare del campo che abbiamo toccato prima, quello dell'informatica, che alimenta se stessa attraverso le proprie invenzioni, possiamo renderci conto velocemente che i microprocessori di prossima generazione, così come già quelli delle precedenti generazioni da molto tempo, non sono stati progettati dagli ingegneri che li hanno realizzati. Se va bene, i sistemi software che hanno progettato i microprocessori sono stati progettati dagli ingegneri, ma probabilmente non è nemmeno così, perché addirittura i sistemi software sono stati fatti da programmi e al massimo sono stati quelli che sono stati disegnati da umani. Il microprocessore è stato comunque realizzato da un altro computer. L'essere umano al massimo ha dato quelli che erano gli obiettivi ultimi dell'ottimizzazione per quello che la tecnologia in quella generazione è in grado di fare. E se questo vi sembra un esempio troppo astratto di quello che un sistema autonomo può essere, vi faccio un esempio molto più quotidiano. Nel momento in cui state guidando su una strada umida, scivolosa, e davanti a voi, a un paio di centinaia di metri, vedete l'accendersi frenetico di indicatori di freno di altre macchine e premete forte sul freno del vostro automobile perché questo si arresti al più presto. Oggi, nel 90% dei casi, la decisione su quale deve essere la maniera esatta con cui la macchina rallenta non la fate voi. Nel momento in cui premete il freno troppo e di conseguenza la macchina potrebbe perdere il controllo e scivolare sulla strada invece di arrestarsi, un computer all'interno del vostro automobile decide al posto vostro di rilasciare un po' il freno, magari solo per qualche decimo o centesimo di secondo, e farlo in sequenza in modo da assicurarvi che la macchina non perda il controllo nonostante le vostre decisioni sbagliate. Questo sistema si chiama, esattamente, si chiama ABS. Ed è un sistema autonomo che interviene sostituendosi a voi, quotidianamente salvando vite umane. Così come questa autonomia è un piccolo indicatore di come impercettibilmente i sistemi automatici possano prendere posto delle nostre decisioni e noi ne siamo riconoscenti. Così c'è tutta una serie di segnali che noi appunto del gruppo di lavoro che studia da qualche mese le premesse e le conseguenze possibili della singolarità tecnologica chiamiamo i segnali deboli. Come il tuono annuncia una tempesta magari che è ancora oltre l'orizzonte, ma il cui arrivo si può predire perché si sente il tuono lontano. Così c'è un riverbero del futuro in arrivo attraverso la presenza di questi segnali deboli che noi insieme analizziamo. Mi sembra che uno dei contributi parlerà proprio di questo, e se no magari poi lo vedremo insieme. Quindi, riassumendo, la singolarità tecnologica è il punto di arrivo di queste tendenze esponenziali e cumulative che caratterizzano la informatizzazione sempre più autonoma del mondo che ci circonda e che può far sì che il futuro che si costruisce sia disaccoppiato dalla volontà umana. I gruppi che studiano la singolarità tecnologica cercano di capire che cosa questo significhi per gli individui e per le nostre società e come far sì nel momento in cui affermiamo, ed è uno dei nostri assiomi, che l'umanità, gli esseri umani e i nostri desideri siano importanti, positivi e debbano essere presenti nel futuro, come possiamo plasmare il futuro che tenga conto di questo? Io intanto avrei terminato con questa premessa. Passo agli altri contributi. Vision magari mi aiuta, a passare la parola a chi tocca. Certo.